scusate, riprendo io, dai, io vi interrompo, dai, vi saluto, ciao, senti, adesso Natalino di sfuggita, lo saluto per primo, che è l'ultimo che è entrato, ciao Massimiliano, Antonio, Claudio e tutti gli amici eventuali in ascolto, io faccio corretti, ciao ciao, divertitevi. Ciao ciao Robè, ci sentiamo alle prossime, dai, buon corretti. Saluto anche Natalino, dai, avanti Claudio. Ciao Robè, buon corretti. Avanti qua. Ehi Claudio, lo riprende, vai bombolo. Stavo mandando un messaggio a un capo di Bugnetta. Ciao Tartarì, buonasera, ben ascoltato. Cavagata. Antonio, ti faccio pagare lo sbuglio. Guarda quanti BP ci sono, Massimiliano. Massimiliano, guarda quanti BP ci sono, un bel BP ci sono adesso. Tartarì, quanti BP ci sono? Tre. Cos'è Cla? Scusa che stavo ascoltando un messaggio di un capo di Bugnetta. Ah, voi dove hai un capo di Bugnetta? Io burro, un amico, senza bere. Ascolta, guarda quanti BP ci sono così. Così mi sembri pomponio. Ah, vero? Ah, allora c'è anche lui. No, no, togli, togli, come al solito. Prova a mettere solo quello del microfono. Aspetta. Allora, questo è tolto. Ecco, questo è... metti poco poco di eco, giusto per vedere com'è. No, funziona bene con l'eco, guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5. E quanto ce l'hai l'eco all'eco? A 2. Alza ancora, fammetelo a metà. Guarda, così a metà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma il ramara! Chi era portante ce l'ha? No, no, ho toccato un pulsante e non mi ci va più la radio. Sta attento con chi ci mani, Antonio, non tocca nulla. Non va bene, Massimiliano. A voglia, va benissimo. Comunque, quella schedina che c'è lì a fianco quando tu apri il cassone, là, del Galaxy sto parlando, quella schedina lì, quel trimmerino che c'è, quella è lecca-lecca, capito? Per dillattermi. Infatti è tutto chiuso, il mio è chiuso. Se metto l'eco della radio non funziona, devo aprirlo quel trimmerino. E allora, mi guarda, adesso... No, questo è il bip, aspetta. Adesso te l'ho aperto in diretta, guarda. Hola, 1, 2, 3, prova. Mio l'hanno chiuso. L'hanno chiuso, si vede che è tutto a zero. Perché guarda, io metto ecco. Hola. Non funziona, vedi? Funziona sempre quello del microfono. Cosa vuol dire questo send che mi è centrato poco qua e non mi facciamo andare più la radio? Ah sì, che avevo dato imparare a Massimiliano oggi con Presunta. Cosa hai detto tu? Cosa vuol dire questo send? Cavolo, quello lì mi si è inserito, non riuscivo né più a andare né più a uscire. Quello è la portante, è una portante manuale quella. Tu invece schiacci il microfono, schiacci quello lì e parli e poi lo disinserisci, come il PTT. È un PTT quello, tu. Maledizione, Natalino era tirato con me. E perché esci che tolgo l'eco? E perché era tirato con te? Non si dirà mai Natalino. Vai Massimiliano. Sì, sì, quello io... Vabbè, la lascio così, dai. Tanto mi si devo mettere l'eco, c'ho il microfono. Dice che gli stavo sfasciando lo smitter. Non posso immaginarsi da attaccarli. È come Roberto, io quando c'è Roberto devo usare 5 watt. Se ne uso 15-20 mi deve attenuare. È un casino. Quando sei vicino bisogna avere massimo rispetto. Kappa, va bene, anch'io ho chiuso tutto, dai. Oh, va bene. Cazzo, ma ha già contato il frequenzimetro, cra, ma ti rendi conto? Sto diventando un tecnico, cazzo. Ehi, la gente che arriva un vitro, ubiazzemo a chi dà. Portala qui, portala, non ce n'è problema. Tolgo tutto, la mettiamo sopra questa scrivania, la apriamo in due. Chi ha paura, sarà, ma che? Stamattina l'ho sentito, perché sto spedendo la radio di una persona. Capito? Poi te lo dico su WhatsApp. E domani mattina puoi scendere da Francesco e spedirla. Ne hai questa radio? No, aspetti, mando un audio. Eia, vai, bombolo! Kappa, una paura! Cavolo, mi c'è bloccato tutto, non riuscivo a parlare, non riuscivo. Natalino, dove sei? Siamo qua! Cappa, lo smith ti sta rompendo! Tutto fondo schiena! Se siamo a due pazzi, lo sapete, non è lontano no, da me. Natalino, si sentire più la televisione che la voce Giulia. Perché c'è un microfono lontano. Dove è basso il televisore? K. Secondo che mi ascolto un messaggio. Ehi a K. E basta lì. Sì, ripega là. Non mi è toccato nulla, già mi impacco il giusto. Ma non ti è toccato, Natalia, vero? Come? Non ti è toccato nulla, davvero? No, tu sei impazzito, non mi è toccato nulla a me. Mamma mia, come sto? Tanto a te nulla ti è toccato. Oh, ma a me non mi è toccato nulla, no. Porca miseria, anche tu. Mamma mia, come sto? Capo, lo sai che fai ragione, è freddo freddo, eh. Hai visto cosa vuol dire? Se ti sto dicendo la mia, guarda, manca non è tanto quando la usi a potenza alta, sì, è vero che arrivi più forte, ma cosa serve, non serve a nulla. La radio respira molto, molto meglio, lavora meglio, 10 watt sono più che sufficienti. No, la mia non va più di 40 in AM, regolata così, me l'ha detto anche Massimiliano, perché tecnicamente va così. Il manual service si dice 40 watt in AM, 40 watt, se sto lavorando a 100 watt, stai sfruttando un bel finale, 100 watt deve lavorare in banda laterale con la radio. KK, avanti Massimiliano. Ma il problema è che chissà che fa Antonio è a 40 watt, quando la mette con 10 watt c'ha i picchi che sono di più di 40, sai zitto. Perché è troppo spinta, capito? Invece questa no, 430 in io no, se la metto a 10 watt arriva a 35, non supera i 40. Se poi la metto a 20 watt va da 20 a 40, e boh, se vengono anch'io, non va di più. Ma perché, Massimiliano, è stata fatta a laboratorio, capito? No, Massimiliano, l'ho messa più bassa, l'ho messa. Guarda, fai da 5 a 9, fatelo conto. Capa, l'ho messa più bassa, l'ho messa, non sto dando, sempre non li sto dando. E va meglio per la radio, non scalda. Mettila a 15 watt, tanto 10-15 watt va benissimo. No, oh, no, che è troppo, Massimiliano. Cosa è troppo? 10 watt, troppo, manda. Così non scalda e va bene, va la radio. Sei soddisfatto, dai, ti sento proprio soddisfatto. Ma vabbè, se vuoi ti accontento, dai. Ora, ora, meglio va così. Quanto l'hai messa adesso? Vai a dire. È buono, va bene. Ve ne fare i buchi, così, Antonio. Oh, arrivo subito, Eia, siamo qua. Vai, Natali. E cappa, dai, io sto chiudendo, devo cenare, là. Ci sentiamo. Salutoni a tutti, là. Eia, di cazzo, non siamo ancora entrati già su Arrendici, buh. Vabbè, devo cenare, capito? Mi devo fare l'insulina. Ah, ecco, va bene, allora, dai, ciao Natali, ci sentiamo, vai, Antu. Ciao Natali, ci sentiamo. Va bene, comunque, Antu, ottima radio. Cappa, ma Giumiccio però che in FM salta parecchio me. Minchia. Tanto, già lo so come funziona. Soprattutto io che c'è uno strumento attaccato mi nabizzo. Ma quello strumento mi sa che non basta quando sei in FM. Basta, fino a un chilo vado qua. Ah, fino a un chilo vado qua. E quanto ti sei in FM, un bel? Mica l'ho cambiato me, ne ho un altro. Ah, è vero che c'è quello là tu, sì, è vero. Ragazzi, arriva, 150, va lì. A voglia. Kappa. Però fammi una prova, male ti viene a fare una FM? No, a me no, fai io, passa. Bye. Chicos. Ma via là e facciamo lo Smith, grazie. Bomba e pompa. Lo so, lo so. Aspetta, c'è ancora, vuoi entrare col TH piccolo, tu? Chi è avanti? Passati un attimino in FM, là, mi hai fasciato lo Smith. Anch'io ero in FM, esce un bel bene. Cazzo, mi ha detto, vedi come mai arrivava a fondo scala. Anche a me arriva a fondo scala. KK, dai, io mi un altro paio di passaggi e poi ragazzi vi lascio. Che vado e mi cucino un pezzo di coniglio, nati in Burugana, so con una vita senza mangiare. Cucino un pezzo di coniglio con un agrodolce. E buona. E tu, c'avevo il desiderio di mangiarmelo un pezzo. Sono una vita che non ne tocco. Ma dov'è a cucinino? No, mi raggio di cucinare. Cucina Giandino, che è buono. Di senza mangiarne e poi faccio come il coniglio mi tu gli alluggiare capa c'è come un pugno a capo e così è giragliata poverino no, quello non si tocca allora voi una piccolina metterti dentro a casa vai che cosa? no dai che la notte viene prima di spavere quello di lei cosa c'è? Aspetta, cos'è tu? No, animali più. No, Cla, stavo dicendo che mi cucino un pezzo di coniglio, adesso scendo giù un altro po' di passaggi e poi scendo giù, ho detto, ho voglia di mangiare un pezzo di coniglio, me l'ha comparato da lì, sono una vita che non le tocco. Ehi, io sono anni. Quello è buono, il coniglio del cacciatore è buono. Una volta a Santa Maria del Covilas mi hanno invitato uno sfottino, c'era un po' di lepri alla cacciatora. E poi me l'ho fatto anche gli gnocchetti con sugo della lepre, ma ti dico che era una squisitezza. Buono, no, io non lo faccio, lo faccio in agrodolce, capito? Con le cipolle, lo zucchero, e metto due olive di quelle di salamoia. E già mi esce buonino, va. Un pezzo di rosmarino, due foglie di alloro. No, vabbè, sì, così si fa. Vabbè, l'aceto devi mettere anche. Certo, un bicchiere di aceto. Aceto che si fai consumare con lo zucchero. E il cinghiale faccio così in agrodolce. Piace molto Ilaria, anche Anna. Gappa. Vabbè dai, facciamo un altro paio di passaggi, poi mi preparo, vado a portare il cane. Allora Massimiliano, va bene così, quello che mi hai detto, ok, di Neros. Va bene quindi questo microfono, lo lasciamo sul Galaxy. E allora, Cla, fai così sì, no? Capisci a me, se poi ti serve, cazzo, vai a te del pareggio invece, capito? Vabbè, dopo tu dica il messaggio, va. Sì, no, non siamo già sentiti, dai. Adesso facciamo come mi hai detto tu sul messaggio, dai, già va bene. No, questo va benissimo, è nuovo, almeno c'ho il Saletta sul Galaxy, l'M60 sul 430 e il MBP5 lo metto sul DAC, capito? Sì, perfetto così. Questo è superiore, Ocla, sul Galaxy è superiore il Saletta. Vero, rispetto al P5. Un altro bacio di maniche, Ocla. Va bene, dai, sono contento. No, nuovo. La stina devo accorciarle il tubicino che è troppo lungo, non mi piace di uscire lungo. Glielo accorcio appena, domani mi metto, smonto la stina, la taglio col seghettino appena e poi gli rimetto il portacapsula su, ho capito. KK. Vabbè, a me non mi piace il suo tubicino, preferisco il suo flessibile. Se ce l'ha fatelo dare. A me piace più quel flessibile. È più originale poi, dai. Ma sai cos'è? Che questo tubicino c'ha. Lo non c'ha più, non ci metti la spugnetta, quel coso lì, capito? È molto più bello così, è bello, eh. Devo fare bene la foto. Beh, dai. No, già c'è il flessibile, tutta la curva c'è il flessibile e poi c'è il tubicino per essere più rigido. Anche il flessibile tutto si muove, tutto si porta, invece questo è bello dritto. Già c'è il flessibile un pezzo. E vabbè, dai, vedi tu, dai. KK, avanti tanto, dai. Un altro passaggio poi chiudo, vai. K. Mi pare che sei di qualcuno, mi pare. Mi assicurate che non intengo. Raga. Che sono... Ah, a Pomponio. Di capo, lo sono apparecchio che non lo sento. Uia. Già entrerà. Non lo so. Va bene, dai, tu, io ti saluto, dai. Saluto a Claudio, saluto tutti quelli che stanno ascoltando, ok? Dai, ci aggiorniamo dopo a Motozappa, Cla, ok? Ciao, buona serata e buona continuazione. Avanti, Cla. Eia, eia, no, altro, stavo solo provando se funzionava tutto, ma io uso il bip del Galaxy, no, non ci devo aver matto per il caleone. Ciao Massimi, ci aggiorniamo dopo su WhatsApp, dai. Tanto anch'io ti lascio una decina di minuti, un quarto d'ora vado a portare giù il cane e poi già rientro, ok? A dopo, ciao. Eia, ciao, ciao, Cla, ci sentiamo. Ok, io scendo giù a mangiare. Ciao, ciao. Eia, a dopo, ciao, ciao. Perché troppo va a prendere il tram. Ehi, allora, io sono in Fornelli, ci aggiorniamo dopo. Ah beh, per il vecchio, ci arrivi così a casa. Qualche problema sicuramente. No, la uscita non esce male, è un po' occupa la radio. latte dolce hai detto? Eccomi, buonasera. Oh, chi è l'amico? Luca. Ciao, tu, Max, bu. E buonasera, Max. Tu, non lo so, se non entra. Ora, un bel forte, Luca, così. Vaffanculo. Sì, sì, va bene, aspetta un attimo che sto... Sono alle prese con un tablet, aspetta. Eia! Avanti! Chi è avanti? Non stai uscendo di modulazione. No, c'è nessuno. Capa, no, ce n'è uno a 9.20, sta arrivando qua. E allora c'è per te. Capa, già il mio ragione bip, come si dice? Tipo quegli apparecchi da camionista, vai. Eia, è Massimo, sta provando un microfono, tu ti aggiungi transiora, ciao Tony. Massimo, un camionista, lì a Predaniele. Ciao Claudio. Capa, Massimo, ecco qua, sta uscendo, vai. Ok. Ehi raga, beh, che io devo... Sto facendo cose quasi, non mi occupi. Domani devo portare via un po' di roba, sto facendo che ecco, non le scatole, se no diventa un problema. Beh, ci aggiorniamo dopo. Ok, già sono qua comunque, non vi preoccupate. Ciao Cla, poco ricchi. Capo, ciao Cla, dai, ci sentiamo. Ok. Vabbè, tu lì. Tabuccio. Tutto a posto, niente rotine. Capo, tu dimmi pure io che sto uscendo da una piccola convalescenza. Uff, sono stato male, mamma mia, manco di cane. Io. Adesso sto un pochettino meglio. Capito? Sei il tempo pure, dai. Io vedo ora arrivare a cometti, così mi sistemo io. Ho capito. Ho detto, vedo ora a Cece Comezze. Oh, non so, devi andare là. Mamma mia, ma non mi puoi dire che sa la prima, perché ci fatti quindi a sedina. Sì, va bene, di nato, va bene, non ti devo buttare di nato, mi sento stare bene, però saluto io, forse non ne guardo. Ma non è chi sono, andato a andare, Raffa, mamma mia. Adesso che vado fuori, guarda, ti comprai qualcosa di positivo in quelle zone, ho visto che c'è stata una cosa bella. Già, lo so già. Faccio il giro da Milano e vedo un po' se c'ho qualche parente in quella zona. Mi davo dritta. È vero. E scappa. Ho tre pareti da io a Milano. Quindi. Ho già comunicato. Cosa mi interessa, ma se posso io non c'è problema. Cappa, cappa. Ah, non male, da. Se conosci gente di già sei a dama. E cappa, non c'è problema per te. Non sta bene. Tutto è mi interessa stare bene con Pascal, lo ricordo. Oh, yeah, Santo Antonio, e infatti mi trattiamo qualche giorno più, dai, una decina di giorni da fuori. Cappa, non stai uscendo, no, amico. Sale la portata, ci siete solo il bip, non sto uscendo. Cappa, se vuoi far controllare quel microfono, c'ha qualcosa, c'ha. Diciamo che fino a saccato è strano, quello della radio. Sicuramente. Io non so se è PM, se è parapesante, se è a casa, non lo so. Certo che se è a casa uno, non tanto Salvatore, se la giusta. Se in macchina viene un po' male, Cappa. Sì, uno è abile. Attacco l'inverter e lo salda lo stesso, che il saldatore va. Anch'io ce l'ho l'inverter in macchina, ma non sono tutti che ce l'hanno tu. Capo, già lo so. L'altro giorno mi dovevo fare una saldatura, mio padre ha attaccato l'inverter, cosa che ha caciuto più bene quando ha attaccato. fa 2.20, non capisco perché. Chi ha fatto più in fretta? Non riesco a capire perché. Sì, ma con l'inverter non è che pensi di attaccare qualsiasi cosa, Perché io ho già provato un trapano e non mi ha fatto andare. Roba piccola già puoi attaccare. Io sono andatore già con forza. Sì, però un trapano no, perché era un punto situato dove corrente non ce n'era. Ho provato l'inverter, uno ha fatto zzz, e poi si è fermato. Niente, non ce la faceva. Non va proprio la pizza, ce la fa. Capito? Purtroppo. Qui bisogna vedere da cantè da voi, Non lo so, perché il trapano già 500 watt ce li ha, Ma l'inverter non ci arriva, ce la chiede da 250 watt più basso. No. Niente, questa è qualsiasi cosa, lampadine, saldatore, tutto quello che vuoi, tranne che roba pesante perché non ce la fa. Ma è così, dai. Poi sfrutti la batteria e lo sa perché si attacca la stessa sigari. C'è anche intorno a quella portata, quello già ce la fa, Però già ci sono quelli più grossi. Antonio, ma è inutile averne una 500 watt o 600 watt che poi devo sentire un motore e ti sfrutta la batteria. La batteria ci soffre. Non lo so, te la vado a andare a 1000, però già c'è. Ma poi abbiamo altri mezzi. Io ho l'avvitatore, ne ho tre avvitatori, faccio un po'. Euro 20 watt ce l'ho e 15. Quando lo carico, mi durò ore e ore, e lavoro che puoi fare. Certo, se devi fare un buco a percussione e ci metto armato, è un casino. Perché con la batteria, intanto non è che può fare, capito? A pochicini, non è come quello di disco. Io già non ho problemi. Se voglio vado da babbo e dico impressami chi su gruppo elettrogeno, mi trovo che tira la bomba da nel lampo. Cioè non c'è problema, non penso che ce l'abbi anche tu. Ma il gruppo elettrogeno non è un qualche non mi serve, per noi. Però come attrezzatura non è una canista. Mi sono trovato l'assenatore che io l'ho cercato una volta l'ho trovato. Perché c'avevo la punta taglio, che non mi ricordo, dove ho messo presso della valigetta. E girando, oggi è lì, adesso c'è che si mette a posto. Perché c'era solo quella punta, dentro la torre. Questa è la foto. Caffa, no, già. Ma ce ne sono di quei così, anche un bel forti, sono che golcani l'anima, golcani. Dici sì, molto picchi così e non fa travese e cose, ci sono anche la batteria, ho visto. Io sono un cancellatore che non è enorme, è di quelli stesso che sono 2.20 però. E mi fa benissimo, un po' di lavoro neanche pesante, che fa bene. Ma da trappolo e da cancellatore, da molto piccolo. Poi abbiamo preso due prolunghe da 20 metri, quelle col cavaraccione, con la presa sciucco, maschio e femmina, con sempre la più stretta, praticamente. E avevo già una, mi ci è inviato il giorno e ne ho fatto un'altra, è l'ultima giù. Antonio, eia! Guarda che non c'è niente, va una busta così, l'ho vista io, di una cassettina, c'era quattro chiavi in croce, un trappano vecchio. Tu presente era veramente a carboni? Edo a carboni se lo vuoi il culo. Se li piace. Pure a noi, cioè. Noi ne abbiamo parecchie di roba. No, tu lascia perdere. Quello che ho visto io è una cosa indescrivibile. Indescrivibile, lascia perdere, guarda. Io so che anche tu sei ben attrezzato, ma penso che ce ne siamo pochi, come Antonio Cavasacchi. Se puoi vedere il trasolante, guarda, non c'è problema. Ti ringrazio. Va, guarda, mi sta chiamando mio figlio, rientro subito. Ehi, ehi, attori, quanto? Io sono stato a casa sua, già non abbiamo montato l'antenna, ma lascia perdere. C'ha armadi pieni di tutto, pialle, trappani, avvitatori, serie di chiavi, ne avrà una trentina di scatole, di tutto, c'ha nastri, fascette, collettori, di tutto, se è stato nativo, tutta la roba per lavorare il legno, c'ha tutto. Da là alla Z, non gli manca nulla, davvero, eh. Se li piace farsi che ci cose, è meglio che così, eh. Beh, se lui lavora queste cose, per forza è così. Ognuno c'ha... c'ha le sue passioni, c'ha. Ok, tanto che mi hanno chiamato a mangiare finalmente. Beh, già sono qua comunque che devo fare cose, eh. Ritorno dopo che mangio, ok? Scappa. Dai, ciao, dopo, salutami a Tonino. Ok, scappa. Vabbè, non ci sei più Tony. Aspetta che la telefono col figlio. Cappa. Così non ho sentito. Cappa, bianco un attimo. Hola. Attenzione, 10. Hai malattia, sì, Antu. Ehi, domani si riprende. Era malattia, sì. Non hai avuto febbre? Ieri sì, ieri ho avuto la febbre. Ma sto bene però, dai, oggi sto bene. Non dico che non mi è dispiaciuto stare il lunedì a casa, lo sai? Beh, bisogna sempre lavorare nella vita, bisogna avere anche un po' di riposo, Cappa, lo so. È un po' di stress, E poi tutti gli sori, lui. Diciamo che mi ha fatto bene stare a casa. Sì, sì, ti credo, Anto, ti credo. Te lo so, lo so. Non fa male stare a riposo, anzi, fa più che bene. Purtroppo no, bisogna anche lavorare. Ma molto, molto no. Bisogna anche avere riposo. Sì, sì, è il capo. E poi io ho lavorato tanto, mi va di mezza che di a casa. Poi io qua sto bene, la verità, sto bene qua in questa casa. L'altra volta non mi cadia così. Lo so, sta bene, punto. Cappa, sarà perché ho cambiato un po' di aria dopo più di 30 anni stare lì. Oh, mi sono ambientato subito qua, E gatto, se non ti rispondo subito sto controllando una cosa, va. Mi voglio bucare la mezza di piedi. Ehi, non ti preoccupare. Lavoro? Sì. E meno male che ce l'hai ogni giorno. Ogni giorno, no, ma... Vabbè, però ti conosci di targa, la roba con sa. Già va bene. Sì, quello sì. Già, pure io mi sto organizzando un altro lavoro. Adesso appena che è, dall'altro mese, comincio a pulirmi di una fase. Che lavoro devi fare? Te l'ho detto. Allora così finisce asciugarsi pandemia, faccio qualche serata, qualcosa. Per quello, fai bene. Sono soldi, mi. Per un matrimonio mi vogliono dare 400 euro. Buono. Cappa. Mi muovo in carreggiata e via. Adesso devo prendere qualcosa in più. Certo. Cosa fai? Bisogna inventarsi un lavoro, perché c'è questa pandemia, se no i miei circoli qua in zona ne avevamo dato e qualcosa l'avevamo fatta. Sì, buono. Certo. Qualcosa si richiede sempre. E cosa fai? Se uno rimbalzi, cioè se uno si vuole migliorare nella vita bisogna fare qualcosa. Esatto, quello che dico io. Se no siamo sempre sotto agli imbecilli. Sei capiscato, avanti. Chi è? Ah, bruciali non si sa dare. Per me per niente non gore, la giacconza e dei chive. Mi pare che mi pongo una gaffa nel muro, guardi un tubo, due gaffe, guardi un tubo come te ne dite, di chi se ne leva, me lo piatto e mi attacco con l'antenna là. Fai usci? Beh, per niente lungore vederla in chive. Me la metto più di santa, me la metto. E c'ho due antenne. Ma la giustata, no, cavolo, l'altro arringo. Uno e uno di stazionare, manco ci muove. È una gannunata, Antonio Bombolino. Ah beh. Ehi, ehi, non mica sto facendo, manco. Già vi sto ascoltando, lasciatemi 10 minuti che sto imballando due cosette che mi servono domani, se no, no davvero, non lo vedi. Ci sono qua comunque, con chi stai parlando? Con Luca! Ehi, ehi, Lucariello, Lucariello, noto per il Vella, ci sono qua. 2 minuti che devo sistemare queste cose e poi già rientro, dai. Ehi, fai, fai. Vabbè, a cosa è l'apparecchio? Allora, l'apparecchio sta caricando promi la schermata. Sì, la promo sparava. Ma io non riesco a comprendere come ti vada l'imbarrato di tanti chissà e cose. Ti può capitare, ma... Ma niente che parlo poco in mano. Cicumuro, se potevi intendere. Non sei solo l'antocicumuro, o via, questa età. Cosa hai detto? Ma chi non sei l'usuro, Cicu? Certe volte compagnia io, vabbè, io posso essere prima di te. Comunque il tablet è acceso, dai. C'era praticamente il connettore di ricarica risaldato, mi sono messo per un piano e gliel'ho risaldato. Siamo che stai andando, sei a posto. Franco Mare. Senza le bicicletti non mi vengo più. Sono qua io, raga, fatemi finire queste due scatole. E ho finito. Ehi, no, c'è da Luca. Ehi, Antu, se queste cose non è... Poi, ognuno si mette a le fare, però se non le sai fare... È molto difficile qua, molto difficile. Però magari se uno ci prova, io non so, già dove mettere le mani, capito? Tutto qua. Poi, ragazzi. Oh, oh. Io proprio, no, non ho mai fatto quel lavoro lì. Vai, vai, cla, chiudi le scatole, non c'è problema. Oh, cla, chiudi le scatole senza girarle, mi raccomando, sono lì vorrà tutto. Ehi, ehi, signor Ferro. Ma per il bello, poi dai, mi sa che c'è tanta giocare da due o di cose, di pomodori. Allora, ma so che è quello. Niente, sto tirando e non entra, gente, un attimo. Capo. Sono una pure che sei attento come te ne fai, se noi facci tutto burro. Non è roba mai meno. Ora, chicos. Io sono qua, dai. Eia, eccomi. Fattai la cosa. Eia, sta a posto. Gaffa, gaffa. Oh, via. Ma è freddino stanotte, Vabbè, quando c'è caldo, ma sono sceso giù, capo. Per il freddino. Io già lo so, c'è freddo. Già lo so. Gappa gappa, sto mettendo a posto, altro, sono passato col gas, mi senti bene? Sì. Ah, una meraviglia. Ehi, ehi, va bene. Oh, lui, c'era un filo staccato del modulometro, l'ho attaccato. Ehi, claro, adesso non lo so per il problema. Charlie mi sta dicendo che sono uguali il Galaxy con il Typhoon, in realtà che sono uguali. Ma non bisogna dire di a Gianni, non si ti ha giù il tuo muro. Io Sì, in realtà ad esempio l'Urano c'è uguale, sono tutti uguali quelle cose lì, capite? No, il modulometro che non funzionava, la spia, c'era un filo attaccato, l'ho aperto e l'ho saldato. Ma cosa qualsiasi non andava, non c'entra niente. No, c'ha qualche modifica quel telefono sicuramente, è per quello che non va. C'ha qualche modifica, c'è qualche filo da correggere, secondo me, pure non so se sbaglio. E allora pure che sei così. Potrebbe essere così che c'è qualcosa. Perché strana la cosa, Beh, non si spiega diversamente. Se io sto provando, il microfono funziona. Con le connessioni del Galaxy lì c'è qualcosa che non va, no? Cappa, bisogna prendere l'apparecchio suo e metterlo a vedere dove sta il problema. Si conferma, e cosa vuoi che ti dica? No, va bene, mi sono ascoltato, è l'ultimo. Perché lui lo utilizzava con quello lì, col Galaxy? C'è la radio la sua questa. Il Galaxy l'ho comprato da Danilo, capito? Quindi adesso c'è anche il suo microfono e va bene. E allora c'è un qualcosa che è attaccato, c'è un vuoi attaccato, non so. C'è un qualcosa di diverso, Sì, qualche cambio di filo gli hanno fatto sicuramente. Cappa, è strano. Questo lo vedrà Luca perché la radio è la sua, no? E noi possiamo dire quello che ha la radio. Se lui ha fatto dei cambiamenti lo sa lui. Ma non penso. E cosa vuoi che ti dica? Non penso che Luca si metta a toccare, ma è strano. No, non penso neanche io, però magari ha fatto dei cambiamenti e non se lo ricorda, non lo so. Scappa, anche perché toccare quei connettori, mamma mia. Ehi, non me lo dico, poi ci vediamo in do qui. Scappa, arriviamo un po' di massicciate. Cioè, perché puoi ritornarli a posto, via. Ma decidi gabbo, Aspetta che metto tutto a posto qua, secondo, arrivo subito. Via. Ora va a scontare in cuffie. No, ora tu mi riguffi, scendi ma laggiù tra giù bussi. Non verrai. Ehi, Ettore, avrò messo dentro qualche busta, Chiappa. E funziona anche l'ecco, va bene, anche l'ecco qua. Ora, ora, si sente appena appena di ecco. Chiappa che si sente. Non è male. Non è male no. Non è male no. Vabbè, nuovo nuovo. Nuovo, peccato. Infatti lo volevo far prendere a Luca, ho detto, ma va bene, per la radio sua, porca miseria. E boh. E cosa avete chiesto? Non so. Vabbè. Oh, va bene, va bene. Ehi, ma la radio c'è anche in cuffia, va bene. Sa Delta, raga. Questo è un Savelta Master Plus Classic. È nuovo, nuovo, nuovo, veramente nuovo, bello. È nuovo. Va bene, va bene. Io questa radio, il Galaxy l'ho preso da Danilo, quindi adesso ho anche il suo microfono, perciò deve andare bene per forza. E poi tutto andare. Allora, queste due adesso otteniamo e basta, gli altri li abbiamo messi in disarmo, già va bene. Gappa, gappa. E lì domani umano. E non l'avevi venduta, no? E ho già il DAC. Ehi. Gappa. Un imbezzo apparecchio. Ehi, ma ve ne ho altro, però, no? Che ti mando la foto. È vero. Allora, certo, ma lo so ben, sì. Come ti pensano gli altri? Tu pensa come la penso io? Io non le do perché ce le ho doppie, ma no, non le do tutte, no. Ne ho fatto tante, ma già ne ho ancora. Ho capito ora. Allora, come te che cassegato vai? Per carità. Non mi gioco, no. Io gioco di me. Non vedi niente cassegata. Che la pensa culo di scimmia. Ma infatti anch'io so demento, io quello che dicono gli altri me lo fai con il buco del culo, capito? Io ci ho rifatti miei, l'altro beh siamo rifatti giù, chi c'ha si rumucco che non è. E ma appunto. Kappa kappa, e li vè là. Poi bello questo microfono che è completo, Infatti io ho chiuso l'eco del Galaxy perché non mi piace, c'ha un eco troppo brutto, mentre questo del microfono è molto più bello. Già non so come c'ha il Galaxy, te la punto pure io, tipo roba di ghiaccia. Che è brutto, davvero, ma è brutto, no, questo già è bellino. Vabbè, io non ne uso, non me frega niente. Non so, lo conosco quell'eco lì, a me non piaceva, non li usavo infatti. No, va bene così, alla grande. Capo, nessuno lo usa quel tipo di eco del Galaxy. Che è brutto, sembra cazzo il prete quando dice la messa, cazzo proprio feo. Ma diciamo che l'hanno fatto. Ma io l'avevo aperta quando l'ho comprata perché c'erano le lampadine di Smitter che erano spente, pensavo fosse un fulminante, invece c'era un filo staccato. E quindi ho visto come è fatto. C'è una scheda piccolina sul lato, c'è un trimerino ed è chiuso, io anche se lo attivo da qua non funziona da fuori, è chiuso il trimerino, capito, che me l'ha futtinuta. KK, tanto questa è la mia e rimane qua, non ce n'è problema, che se non vanno qua, ma nuova, è veramente molto molto bella, e me l'ha venduta Danilo. Kappa, è bello sì, Galaxy, già va bene già. Adesso stavo usando il Turner, adesso sto usando il Master, Savelta, già va bene. Tanto per fare due chiacchiere tu non avanza lì, avanza bei buchi. E la voglia va bene. Allora il B4 e il B5 tutti imballati? Tutti conservati, sono ho quattro scatole dove c'è scritto radio, microfono, cavetteria, tutto conservato. Quella è la prima cosa che ho tolto, ho lasciato il Galaxy e boh, c'era la verità. Poi è arrivato il 430 e quindi l'ho attaccato per provarlo, là. Ma adesso penso settimana di imballare anche quello, metterò già da parte, lascio solo il Galaxy che ha 220, così ne bicio gli alimentatori, ne bicio tutto, lascio solo il Galaxy con questo microfono che ha 220, quando ho finito stacco la spina, ma la macchina lo porto via, capito? Kappa, ma hai detto che è piazzato un tramonto qua? Adesso quella la devo togliere da lì. C'è a tagliare l'erba, c'è a pulire tutto, a fare, quindi quella era solo provvisoria. La tolgo e la metto da una parte, mi sistemo prima tutto, quando sono bello che sistemato allora penso alla radio. Mi trovo un punto dove metterla e la piazzo. Ma vedo che è bruciata la bambollana. E ma te vai a appoggiarla, cosa fai? In terra la appoggi. Un bidone di quelli da 25 kg, cos'è? Di quelli di dinta, no? Ho fatto un po' di impasto con la ghiaietta, con la ghiaia. Quel cemento rapido. L'ho messo dentro il secchio e poi ho infilato al centro del secchio un tubo da un metro per fare da piantone. E poi ci ho appoggiato alla mantova con un altro tubo da 2 metri, ci ho entrato dentro quel tubo. E suga! E pure abbiamo da vedere c'è cosa. Ha toccato, non hai mai visti, boh. Tipo porta ombrellone, visti gli hai? E che io ce l'ho il porta ombrellone, ma mi serviva. E allora l'ho fatto tipo porta ombrellone, no? Kappa. Ma al curumento non si dà di borsa. No, e l'ho legata con due pezzi di nero da una parte all'altra, no, è bassa, è 2 metri, cosa? Boh. È 2 metri, L'ho messa lì giusto per ascoltare. Quando ero lì è per fare due chiacchiere, ma adesso poi la metto come cristiano, faccio l'impianto fatto bene, dai. Kappa, io sono qua per farlo andare, là. E per tenere il barchino in funzione, dai. Giusto così, una cosa volante, mi alto, ma ti vado nei duci, sono un tipo con un portaombrellone, non hai mai visto quei portaombrelloni di cemento che ci sono nei bar, tipo una cosa del genere ho fatto, mi. Sì, ho capito. Allora, una cosa del genere, giusto per appoggiarla così. Ho fatto una prova, era giusto per vedere se arrivavo bene, se uscivo bene. KK. E dai, un mesetto ancora. No, è tutto a posto, poi già sono attivo bene, va. Cappa. Lì già è bello lì, dai. 9:20 ma arrivi quando andiamo a buccia così, me. Non è buccia di gioca, no? No, già una bella zona, tanto. Ehi, caspita, una bella zona. Già va bene. Ma ti ripeto, non è che abbia questo grande interesse. Adesso mi devo sistemare tutto. Quando ho sistemato tutto, poi metto le cose che devo mettere, basta. Giusto per fare due chiacchiere, tanto me la futti tutta. Cioè, non è poco, me. Cioè, poco baro, fa poca cosa. Se non mi ricordo bene, oltre 9:20 arrivi. Ma è forte, me. Cioè, non lo so pensare messa sul tetto quanto spara questa cosa. Certo, non è a casa, non è alta, no. Ma però già è libero, è tutto libero, capito? Già funziona bene. Ma dico, già esci forte così, immaginiamoci mettendola come la devi mettere, che cosa va, eh? Per forza devi andare, se devi validarti devi intendere, se no cosa abbiate a fare, se no esci meglio i tacchi tutto. Che a papà è molto amici. E si conferma, per i veri, andiamo andato per i veri. La cuffia di su tablet. Ah, impegnato, eh. Allora lasciamo fare. Io mi faccio un po' di massaggi da voi. Mi drombo, mi zigocco, perché sono un bel stanco. Ehi, cosa mi ci sto di nuovo io? Adesso che stavo mettendo a posto queste scatole, mi ha detto mia moglie che le serviva roba domani, quindi le ho riaperte, ho preso la roba che c'era dentro, che le serve, perché ho imballato le tovaglie e cazzo, invece dovevo lasciare fuori un paio di ricambi, ho capito. E allora ci ho dovuto portare tutto, aprire, prendere le tovaglie e poi ho richiuso le scatole e l'ho messo a posto. Cappa, ma com'è che ti hai segnato tutto? No, Anto, se non ti segni le cose è un casino. Tutte le scatole sopra le rendelibre, sopra il nastro, quando sono chiuse, ci devi scrivere cosa c'è dentro. E se ho diventi Marco, stai scherzando, anche l'aria l'altro giorno, mi ha detto appunto non trovava le scarpe da lavoro, perché lì c'è il cambio, le scarpe quelle da lavoro, da tennis, le nere. E io mi sono ricordato, le avevo già tutte conservate, la giudura da brito, ora una seccatua, e toglierle, capito? Sogna casino. E io lo so, Anto, ma la sto prendendo, credimi, con molta filosofia e tranquillità, perché mi ricordo quando mi sono spostato in via Pascoli, cazzo, mamma mia, uno stress, va via, un gattinato, non veniva a dirlo. Me lo ricordo. Ti hai spostato in via Pascoli. E non c'avevo niente lì. Eravamo io, Franco, e Mario era venuto a darci una mano, a scendere la lavatrice, il frigo, perché erano piano. A scendere la lavatrice e il frigo, perché quella l'avevo venduta la casa, quindi la dovevo svuotare. Capito? E smontare i mobili e portare in garage via Pascoli. Non è che ci avevo molta roba, perché l'altra era già arredata. Capito, l'altro l'avevo presa per 2 anni e basta, però ci sono rimasto 1 anno in più, 3 anni sono rimasto lì e poi sono tornato qua, capito? Quindi, ma via un po' roba, siamo andati in pressa, una mattinata abbiamo fatto tutto, smontato e piazzato, in Oga avevo una ghedda. Era un soggia, Giulia. Non so, se ci capito che a Pasqua ci muoce un bel. Beh, eravamo tutti vicino, io lo grido. Io me lo ricordo. Anche io è una bella zona, eh. Poi c'era la mappa nuova, l'avevo comprata ed è questa che ho qua, perché da lì l'ho portata qua. L'altra è tutta Vrasica. Ce l'avevo più di 15 anni sul tetto. Da quando ero arrivato. Gappa. Vabbè, me l'ho fatta l'esperienza, ma allora basta, allora siamo arrivati, adesso sistemiamo tutto definitivamente, siamo a posto. Io così casa noia, tranquillo. nessuno di rompere i cattoli. Sì, ma guarda che neanche qua, io sono dall'87 qua, no, è che ci sono 2 giorni, no? Non ho mai avuto problemi perché una parte del tetto della mansarda, quella era di mia suocera, capito? Perciò posso salire, scendere, fare, no, non c'è nessun problema, figurati. È un problema di condominio che è andato a farsi fare in culo, e poi io ho bisogno di avere più libertà col cane, con tutte le mie cose, no, basta, boh, finito. È finito il condominio, adesso sto molto, ma molto meglio. Poi quando vedrai mi dirai se ho ragione. Non so. Dove andrai? Deve essere un poco motorizzato, se no è un casino. Però là già, adesso siete nell'età giusta per farlo. Allora, già ho 80 anni. No. Non lo voglio già fare da tempo, solo che non sono mai riuscito a vendere questa, capito? Venivano. Vediamo, e tutti lavoriamo gratis. È capitata l'occasione, ce l'ho fatta quest'anno, dai. Già va bene. Motorizzato in che senso? Che devi avere la macchina, non è? Cioè, per il punto dove mi ha detto devi andare a abitare, devi avere un po' la macchina per muoverti. Guarda, la 147 molto probabilmente la cambiamo, ne prendiamo 2 piccole, quindi non ce n'è problema. 2 piccole, vedi, si è rotta le balle, non trova mai parcheggio via Roma, capito? E la sta mettendo al fosso la noce la macchina, e quindi molto probabilmente prenderà una smartina, lei una smart, e io un appunto, qualcosa del genere, una pandina, vediamo, ma io ho anche la moto e quindi non ho problemi per spostarmi. È una macchina un pochetto più maneggevole. Sì, quella è grande, è grande. È grande, poi ci sta consumando un sacco. È sempre l'andetorra, quindi abbiamo deciso così, adesso vediamo, però questo una volta ci siamo sistemati. Una volta che abbiamo finito tutto, allora la do a un amico, capito? E noi prendiamo 2 macchinette piccoline, poi io ho anche la moto, quindi no, non ce n'è problema. Cioè ci possiamo spostare. Meglio così. Piano piano. Così bisogna fare piano piano. Impressione si può fare nulla tanto. Oh, ne hai avuto un passato, una macchina bella, mi ricordo. Ehi, prima della 147 mi pare che avevo, non mi ricordo se avevo il V40, perché avevo l'Audi A4, e poi avevo preso il Volvo, il V40, e poi non mi ricordo se ne avevo un'altra, c'avevo la Smart, 2 Smart avevamo, una nera e una celeste grigia, ti ricordi? Ma mi pare che ha avuto pure l'Audi, roba del genere. Ehi, c'avevo l'Audi, il Volvo. Già ne ho avuto. Ha voglia. Poi c'avevo la Tempra anche, me le 9 TDI, Station Wagon, lo stesso. La Marea, ehi, se ne hanno già avuto le macchine. No, questa tanto c'ha 320.000 km, ma ti sto dicendo che ancora è buona la macchina, nuova, anche esternamente, ma tutta messa a posto, carrozziere, già l'hai vista. E va bene, va molto molto bene, però per l'uso che ne facciamo noi adesso è troppo grande, capito? Convengono 2 macchine piccoline, che io prima la usavo anche per viaggiare, anche l'aria, per scendere a Predaniel, da salire e scendere, quando ero al McDonald's, capito? Adesso non serve più a niente avere macchine così grosse. 150 cavalli c'è la macchina mia, tu. È un 1009, ma c'ha 150 cavalli, un multijet 16 valvole, è una bestia, consuma un bel in città, e poi costa un bel 320 euro di bollo, pagami. Lo so già, è gussia. Sì, vabbè, ma no, non è quello il problema del mantenimento, è che oramai fai poca strada, capito? Avere macchine così grosse non conviene, quindi conviene avere magari 2 macchinette piccoline, una per lei e una per me e mia moglie, e va bene, poi quando devo uscire, che bella giornata, io esco in moto, tu. No, me la fu tenuta a me della macchina. Poi quando sei in campagna lì, cioè, siccome puoi fare certe cose pure, non ti vuole manco cara a burro di cibo. Ma infatti, KK, è proprio così, tutto quello che c'è da fare sempre, magari vedi, è quello, devo fare quello, vuoi vedere, devo fare quello, mi adesso, ad esempio, mi stavo parlando con Massimiliano, con Danilo, perché devo fare i tubi, le T per montarle fuori nel giardino per stendere, capito? Quindi devo fare anche quelle, piazzarle, mettere il nylon con i cosi, con i morsetti, e viene roba va. Capo, no, ma oltre che quello, dopo che hai fatto tutto poi, una notte, sai, invece di andare chissà in un dì, preferisci più stare a tenerli in campagna, che è più tranquilla, non ti rompe le scatole nessuno, ed è molto più bella la cosa, capito? Invece di stare viaggiando, andando, e te stai lì tranquillo. Si conferma, è così, sì, va bene, piano piano, quando poi è tutto fatto, vediamo, dai. Non c'è problema, c'è perché dici, cavolo, c'ho la campagna, me la godo qua e via, magari qualche giorno non ti rimane in gara, dici, stai più bene lì. E io lo vedo. Ehi, puoi fare quello che vuoi, Anto, te l'ho detto, io già da tanti anni lo devo fare, solo per accontentare mia moglie, abbiamo rilevato la casa della mamma, capito, niente, però basta, ci mi sono rotto le balle stare in condominio, basta così, KK, derive! Ma, mi bella, non va. Cosa? Vieni bella, non fai, come la dai, io ti saluto, ma cosa posso, bici drommo, e via. Ehi, Anto, ci mancherebbe, dai, piena libertà, io sono qua, dai, sono qua, stavo facendo, ti ho detto queste due cosette, ho detto venduto e c'è la biglielucci. Ehi, domani vado a trovagliare. Ah, rientri domani? Capo. Ehi, ehi, già va bene allora, dai. E quindi ora devo rientrare. È meglio che riposi un po'. Eppure me la accende a capo, ugra. Mamma mia, era per così imprinchivi. Manda l'angolo del barazzo a punirla un baraccio, e piazza a mira. Sì, perché non si può fare, te l'ho detto, lasciami sistemare, abbia un po' di pazienza. Intanto io devo ancora togliere i dipoli da su, i pali dei dipoli, che vanno bene per la tua antenna, capito? Quelli che sono all'angolo della strada, che mantengono il dipolo in alto. Devo togliere quelli, sono nuovi, vanno bene per te, sono del diametro dell'antenna tua. Sono due telescopici, 2 metri più 2 metri, poi c'è l'altro 2 metri più 2 metri, capito? Usiamo quello che ci serve, si tira sull'antenna per bene e tu sei a posto. Ma voglio pure due. Sì, due le mettiamo, un intero, 2 metri più 2 metri, capito? Solleviamo di 4 metri, se poi ci vuole qualche tirantino glielo mettiamo, Anto, non c'è problema, anche corto per mantenere, per non fare flettere il tubo, già ne ho, c'ho tutto io, Anto, non si manca nulla, fammi sistemare, io guarda, non voglio dire tronzate, ma io penso al prossimo mese di essere già a posto, capito? Mi sono preso un qualche mese di tempo proprio per non avere problemi, capite? Ma questa ragazza sia a posto, intanto mi pare si sposi a settembre, a ottobre di quest'anno, quindi però ci voleva sistemare la casa per fare un po' di modifiche. Deve togliere la vasca, ad esempio, e mettere la doccia, deve fare un po' di modifiche. Quindi però gliela voglio dare più in fretta possibile, capite? In modo che finisca a farsi i lavori. Quindi penso il prossimo mese tanto di andarmene. Come è terminato, ti chiamo e facciamo il lavoro tuo. Capa, no, volevo mettere una seconda antenna, volevo mettere. Ma tenda a capo, tu se la vuoi mettere da giù i tribali, vi avremo. Ci abbiamo i pali e anche il capo, non devi spendere niente, te li do io. Tanto io ne ho di pali, guarda, innaggia un bel ribari di qualsiasi diametro. Quelli che però sono in testata che mantengono il dipolo, capito? Quelli lì sono del diametro che servono a te, te lo metto e te li davo. Ci mette la trentenna, 2 metri, più 2 metri, 4 metri, e ci mette a fianco a quella lì. No, a fianco non la posso mettere, ecco, è vero, condizionatore. Se la metto la appoggio al muro dell'altra palazzina, mi faccio i tasselli, la metto lì, mi sa. Quello che vuoi fare tu, non ce n'è problema. Tu mi dici quello che devo fare, io lo faccio. La mettiamo lì e così lasci un'antenna con la radio grande, quella che va meglio, quella che esce più forte. E l'altra antenna te la usi con i baracchini. Qualcosa del genere voglio fare. Adesso vediamo, ci vogliono le gaffe, ci vogliono. Ehi, abbiamo 2 gaffe, non ti preoccupare tu. Abbi fede. Cioè, qualcosa mi voglio inventare, perché poi più in alto è meglio, Certo che sì, c'è una buona menata, non ti preoccupare. Certo, vuoi vedere come te la goccia, un po' di capo e via. Ok, ma è cura a gai, ma non vemmo, per la pagina per andare in ghiccio. Via. Dai, ok, ci sentiamo, dai. Ti do già dormita. Ehi, ciao Otto, buonanotte, vai. Ciao, ci aggiorniamo domani, non ti preoccupare. Con calma, io fermo tutto, ciao. Ciao, ciao.